Adesso ascoltiamo un altro dialogo al bar. Un signore e una signora ordinano da mangiare e da bere. Buongiorno, signori. Buongiorno, possiamo ordinare? Certo. Un'aranciata, per favore. Un'aranciata? E per lei, signore? Per me un bicchiere di rosso. No, una birra media. Una birra media? E da mangiare? Io prendo le penne alla carbonara. E io vorrei un panino al salmone e rucola. Mi dispiace, ma non abbiamo la rucola. Ah, niente rucola. Peccato, il salmone c'è? Sì, il salmone c'è. Allora prendo i fusilli al salmone. Penne alla carbonara e fusilli al salmone. Vogliono anche un'insalata? Sì, un'insalata mista. Anche per me, ma senza carote, per favore. Due insalate miste, una senza carote. Preferisce le olive? Sì, grazie, con le olive. Allora penne alla carbonara, fusilli al salmone, un'insalata mista e un'insalata mista senza carote, ma con olive. Esatto!